Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore. Versiamo fiumi di parole ogni giorno, eppure non sempre riusciamo a dire quello che vorremmo. Sarà capitato anche voi, immagino, e tutti noi sappiamo per esperienza che ci sono parole che non riusciamo a dire e parole che non riusciamo o non vogliamo sentire perché ci fanno stare male o ci fanno subito arrabbiare. Capita, no? Qual è la parola che dite con maggiore difficoltà? Grazie? Ti amo? Scusa? No? E quali sono le parole che vi fanno saltare la mosca al naso? Io ne ho una in particolare: non hai capito. Quando una persona mi parla, dico: ma scusa, non hai capito. Qui in studio con me, e ha capito benissimo, Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto. Ciao, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E al telefono il nostro dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un nostro esperto del Daily Lab, che è il nostro laboratorio del benessere, che vi invito a consultare ogni giorno. Dottor Aquilar, sono molto contenta che lei sia qua. Anche io, perché l'argomento è particolarmente interessante, tra l'altro. Allora, senta, io vorrei fare così, vorrei provare a capire qualcosa di più del nostro stile di comunicazione partendo da quello che ci riesce più difficile dire. Del resto, voi psicoterapeuti ti siete allenati, perché forse nella fase iniziale della relazione con il paziente conta molto di più quello che che non vi dice, quello che non riesce a raccontare, le parole che non gli vengono fuori. E certo, come no, nella fase iniziale della terapia conta moltissimo la comunicazione non verbale, come in tutte le situazioni, e in gran parte delle relazioni significative la parte non detta è molto spesso quella più commovente, quella più intima, quella più intensa, quella che a volte riusciamo a dire quando la relazione è finita. E quindi è un tema particolarmente importante, perché non solo sono non dette alcune cose brutte che noi teniamo per noi per proteggere le relazioni significative, ma sono non dette anche le cose più belle, che appunto si chiamano anche in letteratura ineffabili. Facciamo qualche esempio? Sì, come no. Per esempio, al primo posto è l'amore più intenso. L'amore più intenso, quando una persona per noi è molto significativa, ma cominciando anche dalla cosa più semplice, che era per esempio l'amore per i figli. Un tempo si diceva: i figli si baciano solo quando dormono, perché c'era l'idea di non dover comunicare questo amore così forte, perché altrimenti questo poteva essere pericoloso. E l'altro punto è il non detto delle emozioni d'amore all'interno delle relazioni romantiche, come se a volte avessimo paura che raccontare fino in fondo quanto è importante per noi quella persona potesse farcela perdere e renderla poi irraggiungibile. Allora, intanto riflettiamo su questo. 800 24 00 24. Invece ad Alberto, con te Alberto vorrei fare un procedimento inverso. Ci sono parole che ci mandano in tilt, ci fanno arrabbiare, ci fanno saltare per aria, è come se toccassero dei nervi scoperti. Direi che c'è una situazione classica che chissà quante volte abbiamo vissuto nella nostra vita. Abbiamo appena affrontato un fallimento, ci è appena successo una delle cose che meno avremmo voluto, abbiamo fatto un errore che ci è costato caro, e una persona che ci vuole bene ci guarda con il dito puntato e ci dice: io te l'avevo detto. E quella è proprio una frase che in un momento di straordinaria difficoltà ci fa male e aggiunge proprio dolore a dolore, non ci serve a niente, tra l'altro. Marco ci chiama subito da Roma. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. No, mi ha incuriosito l'argomento, perché io in particolare è una cosa che mi fa proprio saltare i nervi sempre. E quando le persone mi, diciamo così, con una frase fatta, mi dicono: ma tu perché sei fatto così? Io so come già sapendo quale sarà la mia reazione o quale sarà il mio comportamento in seguito a un qualunque evento o un qualunque discorso. Quindi questa prevedibilità sottintesa del mio interlocutore è una cosa che mi mi irrita profondamente, quindi ero curioso di sapere se c'era una chiave di lettura. Grazie Marco. E secondo me questo è proprio il fatto, come dice Marco, che le persone ci scrivono dentro ad un copione di cui loro hanno in mano la penna, e a quel punto ci mettono in una posizione che è la posizione di colui che non ha via d'uscita e non ha scelta. Se io gioco in anticipo e ti dico tu sei fatto così, succederà certamente questa cosa, o se io ti dico te l'avevo detto, ecco, io mi trovo esattamente nella posizione di chi è nelle mani della persona che mi sta facendo quella critica e non mi dà praticamente via d'uscita. E queste effettivamente sono frasi che ci lasciano lì molto, da una parte congelati e dall'altra spesso molto arrabbiati, perché è una... noi avremmo invece bisogno di sentirci dire: ma secondo te come andrà a finire? O ancora, se c'è successo qualcosa, un fallimento, qualcosa che è andato male, ma come mai è successa questa cosa? Cosa ti sei trovato a dover affrontare? Cosa avresti potuto fare? Cioè, domande che aprono e non frasi che chiudono. Dottor Aquilar, ma per dare un aiuto a Marco, di fronte ad una persona che gli dice tu sei fatto così, lui che cosa potrebbe rispondere per uscire un po' dall'impasse? Potrebbe raccontare come lui si sente di fronte a questo tipo di affermazioni. Perché molto spesso la cosa più semplice è raccontare le nostre emozioni rispetto ad una situazione. Rispetto a quello, per esempio, che diceva Alberto, io non sono così nemico del te l'avevo detto. Dipende dal tono, dipende dal modo, dipende dall'obiettivo. Alcune volte noi siamo più affezionati ai nostri errori che ripetiamo ossessivamente che non alle nostre abilità. Il te l'avevo detto, detto in un certo modo, significa: utilizza le capacità che hai e fai tesoro dell'esperienza precedente per la prossima. Quindi, in qualche modo, da un lato noi possiamo raccontare il nostro stato d'animo all'interlocutore, indipendentemente dalla forma con la quale ci è interrogato sull'evento che è successo, e secondariamente possiamo anche essere aiutati a non ripetere sempre gli stessi errori ai quali siamo particolarmente affezionati. Questo può a volte aumentare la nostra mastery. Io penso che un'altra cosa è che molte di queste frasi sono frasi tipiche dentro a relazioni che sono in qualche modo già codificate, cioè noi sappiamo chi è la persona che ci sta di fronte e quando ci critica ogni sua frase la incastriamo in una sorta di copione che abbiamo già chiamato, mi dice così perché lui è così, e quindi facciamo molta molta fatica. E secondo me questo vale non solo per le critiche ma anche per i complimenti. Ragazzo, quando arriva Lisa voglio che tu faccia un sacco di smancerie sul suo aspetto. Ma mi vedrà da parte a parte come con le mutande della notte. No, non è così. Quando si tratta di complimenti, le donne sono dei mostri succhiasangue insaziabili. Vogliono sempre di più, di più, di più. E se tu glieli fai, riceverai un mucchio di cose in cambio. Oh, quella è Lisa? Oh, devo telefonare in paradiso, lassù manca un angelo. E chi è la tua compagna di scuola? Aspetta un momento. Ma è mamma! Oh, caspita, non sono carini, grazie! Conosco due ometti che avranno una cenetta tutta speciale stasera. E a proposito di complimenti, c'è proprio chi non ce la fa a farli, sono stiracchiati, detti a mezza bocca, e ci sono persone che non riescono ad accettarli, Alberto, quelle che dicono ma no dai non dire così, si ritraggono, quasi che si sentono invasi dall'altro, eppure i complimenti fanno benissimo. Pensate che alcuni ricercatori giapponesi, in un articolo pubblicato su una rivista, Neuron, sono riusciti a fornire le basi scientifiche del presupposto che la gratificazione viene percepita in ogni caso come un premio e sembra che si attivi la stessa regione del cervello interessata nel momento in cui riceviamo, pensate, un pagamento in contanti. Direi che è una capacità che in questi tempi andrebbe sfruttata, ma ci facciamo spiegare di più e ce lo facciamo spiegare per bene dal professor Massimiliano Oliveri, che è professore di neuroscienza all'Università di Palermo. Buongiorno professore, bentornato. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, i complimenti ci fanno stare bene. Sì, è vero, effettivamente i complimenti implicano una gratificazione, come sottolineava lei nella introduzione, e dal punto di vista del nostro cervello la gratificazione attiva gli stessi circuiti, qualunque ne sia la natura: gratificazione economica, affettiva, lavorativa, legata al cibo, a un'attività sportiva, all'attività sessuale. Ma quali sono questi circuiti cerebrali che sono implicati nella gratificazione o nella sensazione di piacere ad essa associata? Si trovano in una parte profonda del nostro cervello, nel sistema limbico, e in modo particolare in un nucleo del sistema limbico, dal nome un po' difficile, il nucleo accumbens. Sono circuiti che utilizzano come mediatori chimici la dopamina e gli endocannabinoidi, sostanze che vale la pena ricordare hanno una composizione chimica simile a quella di alcune droghe come la marijuana. Ad ogni piacere corrisponde dunque una scarica di dopamina e di endocannabinoidi. È vero dunque, come sottolineava lei, che i complimenti fanno bene perché provocano questa sensazione di piacere. Troppe scariche però, associate per esempio a troppi complimenti, rischiano tuttavia di produrre effetti spiacevoli. Ad esempio? Ad esempio una sorta di dipendenza, anche se questo termine andrebbe usato con cautela nel caso dei complimenti, perché si adatta di più ad altre gratificazioni legate per esempio all'uso di droghe. Certo. È una dipendenza, dicevamo, da quell'attività che ha provocato la gratificazione. Quindi, perché è come se quei circuiti cerebrali di cui parlavamo andassero incontro ad assuefazione, per cui per produrre la stessa gratificazione è poi necessaria una dose maggiore di sostanza, piuttosto che di cibo, piuttosto che di attività sportiva o, nel caso dell'argomento di oggi, di complimenti. Quindi i complimenti dobbiamo farli, dobbiamo imparare anche a riceverli, ma bisogna puntare più sulla qualità che sulla quantità. Direi di sì. Sulla qualità e anche sul tempo in cui vengono somministrati o fatti questi complimenti, nel senso che andrebbero fatti al momento giusto per produrre un rinforzo positivo, questa gratificazione, e dunque per aumentare la motivazione di chi li riceve. Al contrario, troppi complimenti rischiano di produrre l'effetto di cui parlavamo prima. Però, professore, io posso adesso, prima di salutarle, farle i complimenti, perché lei ci riesce a tradurre in termini molto semplici delle cose difficili. Ah, grazie, ha prodotto in me una scarica di dopamina. Grazie. Come sottolineavano i suoi esperti, sono importanti anche dei rinforzi negativi. Certe volte dire non hai capito, anche se anch'io non sopporto questa espressione, oppure non va bene così, è un rinforzo negativo che può aiutare a rinforzare in modo positivo il nostro comportamento. Andrebbero somministrate di tanto in tanto anche questi rinforzi negativi insieme a dei complimenti. Grazie professore per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata. E lo obbligavo a dirmi sempre: sei bellissima. Sei bellissima. Ho paura a dichiararmi, mi scrive un ascoltatore. Se mi ridesse in faccia. Chissà quante volte avreste voluto dire ad una persona, ad una donna, sei bellissima, ti amo, sono pazzo di te, però non avete osato e magari avete affidato il vostro messaggio ad un fiore. Voi conoscete, utilizzate questa forma di linguaggio, rose rosse amore, rosa arancione seduzione, la gardenia raffinatezza. Allora oggi vogliamo mettervi alla prova. Durante la trasmissione vi lanceremo tre sfide associate al linguaggio segreto dei fiori. Il primo tra voi che ci darà la risposta giusta al nostro numero verde riceverà una copia del romanzo Il linguaggio segreto dei fiori. Che da settimane è costantemente nella cinquina dei più venduti in Italia. Ne abbiamo tre, perché vi faremo tre domande, uno per ogni risposta esatta, per gentile concessione di Garzanti. Allora, iniziamo subito. Se volete dire ad una persona, perdonami, ti prego, qual è il fiore che dovete regalare? 800 24 00 24. E intanto continuiamo con le vostre telefonate. Abbiamo in linea con noi Fernando che ci chiama da Como. Buongiorno Fernando. Buongiorno. Eccoci. La frase che mi fa più arrabbiare, vabbè, arrabbiare è un eufemismo, è quando ti dicono non si preoccupi, non c'è problema, vuol dire che proprio bisogna preoccuparsi e il problema esiste. Quando continuano a dire non si preoccupi, a me è successo che quando non mi dovevo preoccupare, invece... Era un avvertimento. Esattamente, è quello che mi fa incazzare tantissimo. Va bene, allora quando chiamerà qua non glielo dirò mai, Fernando, mi segno il suo nome. Perché quando è inutile dire non si preoccupi, ognuno deve preoccuparsi per quanto gli concerne, non per quanto gli dice l'interlocutore, perché quando dicono non si preoccupi non è vero, non è vero, uno si deve preoccupare quando dicono non si preoccupi, secondo me. Grazie Fernando, andiamo a Fabio che ci chiama da Pordenone. Buongiorno Fabio. Buongiorno, eccoci qua. Io avevo una curiosità più che altro relativa al modo, cioè se c'è un modo per farsi, diciamo, scivolare addosso queste frasi che ci vengono dette ogni tanto dalle persone. Tu non riesci, tu non puoi, tu non sei in grado. Ecco, questa era più una curiosità la mia, se esiste un metodo. Beh, sicuramente esisterà, vediamo se ce lo raccontano i nostri due esperti. Alberto. Ma direi ognuno di noi è dotato di due tipologie di intelligenza. Una si chiama intelligenza intrapersonale, cioè io conosco me stesso, e una si chiama intelligenza interpersonale, cioè io riesco a capire, conosco perché quella persona mi sta dicendo questa cosa. Quindi se io poggio la frase che mi viene detta o la critica che mi viene fatta su due conoscenze, cioè io so chi sono, quindi riesco a mettermi in relazione con quella critica e a capire se c'è una punta di verità oppure no. Allora è una critica costruttiva oppure è una critica inutile, quindi io so chi sono, quello che mi sta dicendo effettivamente non corrisponde alla conoscenza di me, perciò non mi tocca. Oppure io conosco l'altro, allora se so che l'altro è una persona sincera, una persona che mi vuole bene, quello che mi sta dicendo non lo posso lasciar cadere perché ha dentro probabilmente una buona dose di verità. Se invece l'altra è una persona che non mi conosce, non mi interessa, ha dei pregiudizi nei miei confronti, ecco, quello è un pensiero che dentro di me posso produrre in modo veloce, molto tranquillizzante, e rispondendo ok, ho capito quello che mi volevi dire, ne prendo nota, ci penserò su. E passo ad altro. Rossella, noi passiamo a Rossella che ci chiama da Caserta. Buongiorno Rossella, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei. Io volevo chiedere, nel momento in cui non si ricevono complimenti e quindi si pone in evidenza quello che è il proprio io, e quindi ci si autoesalta complimentandosi, cosa leggono gli esperti? Cioè questa autoesaltazione, non ricevendo nulla dagli altri. Ecco, quando si dice chi si loda si imbroda, eh? Dottor Aquilar. Beh, gli dobbiamo fare una carezza a questi che si lodano per imbrodarsi da soli. Cioè, nel senso che è una parte narcisistica neanche tanto nascosta, e possiamo semplicemente lasciarla scorrere senza lasciarsene influenzare. Magari allontanandoci un po' dalla lunga compagnia con queste persone, perché altrimenti dopo un po' stancano. Ma c'era una cosa su cui volevo fermare l'attenzione, che era trattata anche da Alberto prima, che cioè sia sui complimenti sia sulle frasi automatiche tipo non si preoccupi, il punto centrale è la sincerità. Quanto io posso credere alla veridicità di quello che le persone sostengono. Per cui non è importante il complimento di per sé, è importante il complimento sincero, anche se alcune volte possiamo autoilluderci che quel complimento falso e dettato da motivi contingenti sia in realtà sincero. L'ultima cosa che volevo dire è che sul giudizio degli altri, invece, che era il tema che ci raccontava Fabio da Pordenone, ci conviene ricordarci che il giudizio dice molte cose sulla personalità di chi giudica, ma praticamente quasi nulla sull'oggetto del giudizio. Questa mi piace, dottor Aquilar, ma questa me la rivendo, mi dica bene. Un giudizio espresso non dice nulla sull'oggetto del giudizio, ma rivela la personalità del giudicatore. Quindi possiamo diventare via via più impermeabili, tranne casi speciali naturalmente, come diceva Alberto, nei quali abbiamo grande stima dell'interlocutore e riteniamo che l'interlocutore conosca noi. Ma nella maggioranza dei casi il giudizio esprime la personalità del giudicatore, ma non dice nulla sull'oggetto del giudizio. Questo ci proteggerà dai giudizi, soprattutto da quelli più stupidi. Dottor Aquila, questa è una bellissima mossa e ci aiuta anche a prendere un po' le distanze, a non sentirci sempre in qualche modo giudicati, offesi, presi di mira. Sì, perché pensateci bene, sentirsi vulnerabili a tutte le critiche vuol dire non conoscere bene se stessi e non avere una buona autoconsapevolezza. Sentirsi vulnerabili solo a quelle critiche che davvero sentiamo vicine al nostro modo di essere vuol dire avere voglia di cambiare e intercettare le persone che ci possono aiutare a farlo. Ma che è successo? Che è successo? Ah, tu chiedi a me che cosa è successo? Ci vuole solo il coraggio tuo. Tu chiedi a me che è pazzesco. Cioè, tu chiedi a me che cosa è successo? Lo dico, guardami. Guardami come sono ridotta, che sono un cencio. Il fatto è che tu non ti accorgi più di me. Non è vero. Ma come non? Non è vero, non ti accorgi. Non ti sei neanche accorto che mi sono tagliati i capelli di 1,5 centimetri. Tu non ti accorgi più di me perché pensi sempre al lavoro. Ecco la verità. Sempre al lavoro, devo andare al lavoro, c'ho da fare al lavoro. Adesso torno dal lavoro, ho capito. Però se tu vuoi... Cosa voglio io? Ma no, ripeti, cosa voglio io? Che t'ho chiesto io? Io non t'ho chiesto niente bello, che t'ho chiesto io? Eh? Invece te sempre con questo lavoro, sempre col lavoro, sempre col lavoro. Ho capito, e allora cosa vuole una donna? Amore. Te non mi capisci, io parlo d'amore e tu non mi capisci. Allora forse dico forse il sentimento, la passione, le cose va bene e tu non mi capisci. Allora gli dico forse è la nostra storia e metto l'impegno e quasi questo e va bene la palestra e che si figludi e che se fai sacrifici questo e questo non mi capisci. Io se ne vuoi che se ne vuole trovare e tu non mi capisci. Io ho voluto stare io vale che dire e tu non mi capisci. Ma se parli così chi te capisce? Magnifico Brignano, quante volte ci è capitato di fronte ad una frase detta assolutamente in buona fede di esserci impennati perché qualcosa ha toccato le nostre corde profonde, anche se capiamo non era proprio nell'intenzione del nostro interlocutore. Spesso i litigi nascono proprio da incomprensioni, parole innocenti che si trasformano nella percezione di chi le ascolta in pugnalate. Continueremo a parlarne, so che il dottor Aquilar ci deve salutare. Dottor Aquila, buona giornata a tutti e buon proseguimento di trasmissione. Poi la chiamo e le racconto. Poi la chiamo e le racconto per capire. Poi lei mi fa un test per capire se ho capito. Benissimo. Grazie al dottor Aquila. Trovate naturalmente i suoi consigli sul nostro Daily Lab. Intanto molti di voi iniziano a scrivermi al 349-238-6666 nomi di fiori che dicono perdonami ti prego. Ma vi devo dire che dovete chiamare all'800-24-0024, ma prendo spunto da alcuni messaggi per dire quelli che non sono le calendule come ci scrive Antonio, non sono le rose rosse come ci scrive un ascoltatore da Padova, non sono le margherite come ci scrive Alberto. Cercate, trovate, chiamate, per voi chi dà la risposta esatta, il linguaggio segreto dei fiori gentilmente dato a noi oggi dalla Garzanti. Essere e benessere. Parole che ci toccano, a volte accarezzano, a volte feriscono. Se volete dire ad una persona perdonami, ti prego, qual è il fiore che dovete regalare? 800 24 00 24, abbiamo 3 copie per voi del linguaggio segreto dei fiori. Vi interrogheremo, vero Alberto, sul linguaggio dei fiori, qua il professor Alberto Pellai che le sa tutte. E alla prima domanda è appunto relativa al fiore che dobbiamo regalare quando dobbiamo farci perdonare di qualche cosa. Andiamo da Ornella che ci chiama da Brescia, 800 24 00 24. Parole o fiori, Ornella? Fiori. Fiori, fiori, fiori. Allora, qual è il fiore? Fiore è giacinto. Sai che ci sono tanti colori anche nel linguaggio dei fiori, i colori fanno la differenza. Ad esempio le rose, se sono rosse, indicano passione, se sono arancioni, seduzioni. Per il giacinto è un po' la stessa cosa. Che colore preciso di giacinto? Dovrebbe essere il color porpora. Il color porpora, Alberto? Noi abbiamo un colore che è vicino al porpora, sì. Porpora, che sarebbe il giacinto viola, secondo le nostre fonti. Ornella, sì. Grazie. Allora il linguaggio dei fiori le arriverà a casa. La ringrazio. Buona giornata, Ornella. Buona giornata anche a voi. Continui ad ascoltarci. Andiamo a Torino perché andiamo a trovare Michele. Buongiorno, Michele. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere, veramente non volevo parlare del linguaggio dei fiori, ma... Ma lei, mi scusi, Michele, mi scusi, ma lei le usa, lei regala fiori e lo fa con pensando al messaggio che mandano o regala i fiori che gli piacciono? Ah, sì. Vedo che non l'ho preparato. In genere, a me piacciono le rose, per cui regalo volentieri le rose. Di un colore particolare o cambia? Sì, naturalmente rosse. Rosse, bello. Sì. Col gambo lungo. Col gambo lungo, sì. Bravo, Michele. Allora, già mi piace. Allora, Michele, cosa ci raccontiamo? Sì, no, volevo solamente chiedere, ma il professore di prima, su quel mi hanno colpito quei complimenti che ti fanno... io voglio sapere invece, quando non ti fanno complimenti, non ti dicono nulla, non ti fanno critiche... Né complimenti né critiche. Lei ha quasi l'impressione di essere trasparente, è invisibile. Ma direi che da una parte uno potrebbe concludere probabilmente sono una persona perfetta e magari è proprio così. Credo che però un altro aspetto sia che forse c'è qualcosa in noi che incute un certo timore proprio dal punto di vista emotivo all'interno delle relazioni, per cui è come se ci muovessimo circondati da un sottilissimo invisibilissimo schermo che rende l'altra persona incapace, ecco, di entrare. Avvicinarci. Non dovete dimenticare che critiche o complimenti effettivamente non parlano al nostro cervello cognitivo, cioè alla parte dei pensieri, parlano molto di più al nostro cervello emotivo, e conseguentemente entrare in relazione con la dimensione emotiva dell'altra significa potersi permettere una buona dose di intimità. Quindi può succedere che uno non riceve critiche e complimenti o perché è una posizione o perché è una persona molto potente, quindi c'è una distanza derivata dalla gerarchia dei ruoli. Sì, non glieli fanno in faccia, esatto. Alle spalle magari. Oppure perché quella persona effettivamente ha una personalità che potremmo chiamare un po' evitante, cioè tiene a distanza. Andiamo da Luca che ci chiama da Roma. Buongiorno Luca. Buongiorno Nicoletta. Benvenuto. La mia domanda è molto semplice, mi aiuterebbe a capire forse un aspetto del carattere di mia moglie, perché dopo ogni ragionamento puntualmente mi sento dire no, non hai capito. E lei? Io vado su tutte le furie. Meno male, in linea con noi abbiamo la professoressa Chiara Simonelli, sessuologa clinica dell'Università di Roma. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, buongiorno a Nicoletta e buongiorno ad Alberto. Con lei proprio volevamo parlare di critiche, complimenti, frasi fatte che a volte proprio minano la salute e l'atmosfera della coppia, e quindi le giro subito la domanda di Luca che dice che insomma la moglie gli dice sempre la stessa frase e lui si inalbera e poi da lì si litiga. Certo, bisogna vedere che cosa dice la moglie, perché ripetere una critica significa comunque mettere in evidenza un problema che è tale per la moglie, quindi forse varrebbe la pena di decodificarlo magari, perché non è esattamente nei termini in cui viene detto. Insomma, prendere in considerazione questo, perché la critica all'interno di una coppia che è collaudata, eccetera, significa una richiesta di qualche piccolo grande cambiamento, insomma, no? Altrimenti si va avanti così, oppure diciamo in un crescendo rossiniano che non conviene a nessuno, no? Ma secondo lei chi è più criticone, l'uomo o la donna? Perché delle donne dice ma mia moglie è una brontolona. Esatto, ma gli uomini spesso dicono questo, no? Che le donne sono molto più critiche, sono come dire delle rompine, di solito si esprimono in termini come dire. Anche più coloriti, ma insomma, sì, va bene. Sì, ma l'idea è quella, no? Sì. Cioè nel senso che sembrano essere più esigenti, hanno una tradizione evidentemente molto lunga in cui il privato è territorio loro, quindi su questo, un po' come la casa, no? Possono essere perfezioniste e anche effettivamente estremamente esigenti, no? Gli uomini tendono a non capire molto di questo perché in generale vengono da una tradizione diversa dove tutto deve funzionare fuori, no? Certo. E quindi è un po' accessorio, come dire, il privato. Quali sono invece le critiche che avvicinano? Perché anche nelle critiche, Alberto, siamo abbastanza abitudinari. Ci sono persone che fanno delle critiche solo legate ad esempio all'aspetto esteriore, al fisico, non so, guarda la pancia, guarda sei spettinato, sei tutto stazionato, e ci sono invece, e deve essere una, forse un tratto più femminile, delle critiche che sono invece vanno a toccare dei nostri modi di essere, dei nostri comportamenti, delle nostre abitudini. C'è un cosa e c'è un come, lo abbiamo ribadito più volte nella nostra trasmissione. Io credo che tutte le critiche possono essere ben accette se quel cosa, cioè l'oggetto della critica, è proposto con un come che crea un legame, non una distanza, una vicinanza, non una distanza. Perciò, per esempio, un buon modo per proporre una critica è: certo, vorrei dirti una cosa che non è così facile né da dire né da ascoltare, però se ne parliamo insieme forse riusciamo poi a venirne fuori tutti e due migliori. E secondo me già questo è un modo di proporre una critica che permette di lavorare davvero poi sull'oggetto del che non, su ciò che non va bene in questa situazione specifica, e insieme possiamo trovare una soluzione. Professoressa Simonelli, le critiche, specie se sono a volte inutili, ripetitive, tante, sono un segnale di un malessere nella coppia? Sì, decisamente, quando diventano tante, quando è, come dire, predominante come stile comunicativo, questo significa che la persona in qualche modo sta denunciando una inadeguatezza, diciamo, della coppia rispetto al modello ideale, no? E quindi anche un'incapacità certe volte di, come dire, di adattarsi o di prendere una posizione diversa, che è anche quella di uscire dalla coppia, no? Ci sono persone che, come dire, vanno avanti così anche per tutta la vita. Certo, però come ci suggeriva il dottor Aquilar, la critica ci dice molto anche della persona che sta facendo quella critica. Per cui, professoressa Simonelli, possiamo invitare le coppie a cercare di capire qualcosa di più del loro partner anche in base alle critiche che il partner le sta facendo. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, però come diceva prima Alberto Pellai, è molto importante il come si fanno le critiche. È molto importante per ognuno di noi riceverle queste critiche, soprattutto se poi si ripetono anche da in bocche diverse. Questo ci farebbe un pochino pensare, no, su noi stessi. Quindi la possibilità di spostare gli equilibri, se c'è una motivazione a farlo, deriva anche da come questo viene, certo, viene proposto e quanto si ripetono. Cioè, se tutte le persone ti dicono la stessa cosa, forse alla fine qualche campanellino dovrebbe suonare. Esatto. Invece, professoressa Simonelli, stiamo esplorando un po' il linguaggio segreto dei fiori, e allora la saluto con una domanda per i nostri ascoltatori, una domanda magari a cui lei sa rispondere se ama i fiori o se li riceve spesso, come immagino. Per dire sei dolce e incantevole, quale fiore dovreste regalare? 800 24 0024, questo fiore lo dono alla professoressa Simonelli che è venuta a trovarci, non posso dire il nome, ma lei si immagini che questo fiore arrivi a casa sua da parte mia, di Alberto Pellai. Grazie, come se fosse arrivato in questo momento, ed è meraviglioso, grazie. Grazie alla professoressa Simonelli. Essere e benessere. C'è un come, c'è un modo, Alberto, per fare le critiche, per fare i complimenti. E c'è anche un perché. C'è anche un perché, ma ci sono anche, c'è anche un tono. Ho notato che se con i miei colleghi parlo usando un tono di voce acuto, quelli si infastidiscono ma non si spaventano. Se abbaio come un chihuahua non gli rimpicciolisco i piselli, anzi, nonostante siano persone che hanno studiato, culturalmente evolute, ingegneri aerospaziali anche loro come me, la modalità chihuahua li fa sentire ancora più liberi di sparlarmi dietro, usando le classiche definizioni che spaziano da zitella mestruata a lesbica mestruata, dove la costante mestruata è un chiaro apprezzamento. La donna chihuahua è molto tranquillizzante per l'organo sessuale maschile. Quando però, al solito sarcastico consesso di colleghi maschi, devo presentare un nuovo progetto di missile subatomico, la sera precedente fumo due pacchetti senza filtro Canto per quattro volte l'aria della Regina della Notte dal flauto magico di Mozart e il giorno successivo ho il timbro vocale di un mastino napoletano. La qualcosa rende contemporaneamente il mio progetto di missile più interessante e i missili loro meno sarcastici. Riassumendo, il teorema si può enunciare così. Due missili identici, presentati uno con voce acuta e uno con voce grave, hanno comunque la stessa capacità propulsiva, ma quello grave è percepito come più veloce. Così dice Smeralda, è una single inespugnabile, non crede all'uomo dei sogni, è una delle cinque donne protagoniste del nuovo romanzo di Carla Signoris che mi sto leggendo con grande godimento e soprattutto Carla Signoris è in linea con noi. Ciao Carla! Buongiorno, buongiorno, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai tuoi ospiti. Senti, grazie. Grazie. Che impressione sentir leggere da un'altra voce. La bella voce di Alessandra De Luca che ringraziamo. Che l'ha letto con... perché seguo sempre il vostro programma e quindi ahimè. Senti, ahimè, meglio vedove che male accompagnate. Dopo, tra l'altro, il successo di Ho sposato un deficiente, libro che è piaciuto molto anche a me, ad Alberto Pellai. Ma Carla, devo dire che io, a me queste donne piacciono tutte, mi ritrovo un po' in ciascuna di loro e da ciascuna di loro prendo un po' le distanze. Le vogliamo raccontare rapidamente? Abbiamo allora sentito Smeralda. Esmeralda è, come hai detto tu, la single inespugnabile, quella più disincantata, più diciamo anche più cinica nei confronti del rapporto con il maschio, e appunto le parole che avete letto, lei ha messo in pratica un teorema per cui la donna che ha la voce acuta dai colleghi maschi questi non si spaventano, se invece presenta il suo progetto di missile con voce grave la stanno a sentire di più, come se il tono di voce grave fosse più autorevole. Certo. E proprio Esmeralda, che è appunto la più cinica, alla fine troverà l'uomo giusto per lei, ma non voglio svelare nulla. Poi c'è Debbie è una cinquantenne come tutte le altre che festeggia da 10 anni 40 anni e si nega il fatto di essere una cinquantenne e lo nega soprattutto alle sue amiche che lo sanno benissimo, per cui certo. Continua a festeggiare tutti gli anni. I suoi 10 è una perfetta, donna perfetta, sa fare tutto lei, non vuole che i figli la chiamino mamma perché secondo lei smancerie tipo mamma inibiscono la crescita e poi abbiamo Vincenza. Poi c'è Vincenza è la donna che è stata lasciata dal marito, che sta aspettando un figlio da una polacca più giovane, più bella, più bionda e più alta di lei, e che quindi ragiona su tutto il suo su tutta la sua vita, si mette in discussione e a un certo punto arriva anche a dire: se io sono così incazzata per la mia separazione, che sai di che cosa è capace una terrorista incazzata quando si separa. Lei è troppo forte. È molto simpatica Vincenza, sì, e poi ricomincerà a ricostruirsi, cercherà di costruirsi e troverà come suo motto: qualsiasi lavoro tu svolga, non è importante cosa fai, ma come lo fai. E lei troverà in questo suo in questa sua nuova passione la forza anche per rinascere, diciamo. E poi c'è Carla, che ho chiamato Carla per onestà, perché l'ho chiamata come che lei. Che vorrebbe tanto rimanere in disparte, però ci finisce dentro e a Carla ho affidato tutte quelle che sono la vita quotidiana, praticamente. Lei racconta il suo quotidiano e la capacità di la possibilità di ridere anche nella stanchezza di un quotidiano e di sorriderci sopra, e quindi appunto prendendosi in giro anche nel rapporto di coppia, di non finire dall'avvocato. Questo è un libro che tu consigli, insomma, agli uomini e naturalmente alle donne, ma che io voglio regalare a mio marito. grazie. Perché, no, perché sì, perché secondo me noi donne dobbiamo leggerlo e poi con una dedica carina regalarle ai nostri compagni. Che dici? Sì, sì, io facciamo credo, un po' di libroterapia. Sì. Mm. E soprattutto se evidentemente tu sai che tuo marito, il tuo compagno è una persona che ha la sensibilità e lo spirito, la capacità anche di sorridere di se stesso, dei propri difetti e dei nostri difetti, dei tuoi difetti. Sì, anche perché vivendo con tutte donne alla fine, no? Per sopravvivere o no, uno... No, per carità ragazzi, senza i maschi non possiamo andare no. avanti, con chi ce la prendiamo se no? Assolutamente, Alberto, tu sei d'accordo? Sono molto d'accordo e credo che tra l'altro una straordinaria reazione a una critica che ci tocca anche profondamente sia quella del sorriso, cioè vieni qua che ti abbraccio, probabilmente mi stai dicendo una cosa che ti ha fatto male o ti ho ferito, mm-hmm. e ripartiamo da questo gesto di ricongiungimento. A proposito del gesto di ricongiungimento, noi stiamo facendo un gioco sul linguaggio dei fiori, ci stiamo un po' sfidando e devo dire che stanno arrivando molte telefonate per il fiore, che significa sei dolce e incantevole. Io vorrei però mandarlo ad un ascoltatore che mi ha scritto la risposta giusta appena io ho pronunciato, appunto lanciato questa sfida. Garofano Bianco, è proprio lui, e quindi arriverà a casa l'ascoltatore che ci ha mandato il messaggio al 349-238-6666, perché non avevo finito di dirlo che lui l'aveva già scritto. Premiamo la rapidità. Senti Carla, dammi una mano anche tu, qual è il tuo fiore preferito tra mimosa, orchidea e fiore di pesco? La mimosa e il fiore di pesco sono due fiori bellissimi, quello che preferisco è il fiore di pesco, però ahimè sia la mimosa che il fiore di pesco sfioriscono, cascano subito, invece l'orchidea dura. Allora cosa scegliamo? Perché così questa è la terza sfida per i nostri ascoltatori che possono ricevere a casa il allora libro. Sceglierò un'orchidea, visto che dovete spedirla, che almeno duri. Va bene, allora orchidea. Tra l'altro Carla, abbiamo un attimo di tempo per sentire ancora velocemente Maria Rosa, che ci chiama dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Maria Rosa. Oh, buongiorno Nicoletta. Ma che buongiorno. Ti riguardi, non so spiegare. E niente, allora io c'ho un problema, allora da tanti anni, io ho 57 anni, sì. quasi, non ho ancora compiuti. Allora invece festeggia da 17 anni, come farebbe Debbie, festeggia da 17 anni 40 anni. Va bene, dai. Niente, allora tante persone, anche le più amiche, mi chiamano per cognome anziché per nome, ma questo è successo fin dalle scuole elementari, le medie, ma anche il meccanico mi chiama per cognome. Allora non so se è un complimento o un rispetto maggiore, non lo so. Però lei, dire. Maria Rosa, questo dà fastidio, perché poi tra l'altro Maria Rosa... Rosa, chiudiamo con una allora ascoltatrice. Tanto noi la salutiamo Maria Rosa e le ripetiamo che per noi è Maria Rosa. Probabilmente lei, Maria Rosa, è davvero molto signora, molto signorile, e per rimanere molto signoris, come la nostra Carla che è in linea molto con noi. Signoris. E quindi questo è un gesto davvero di rispetto, di elevazione nei suoi confronti. Allora, vi invito, devo salutare, innanzitutto devo salutare Carla Signoris e devo ricordare, come mi chiedono alcuni ascoltatori, di ricordare il titolo del suo libro, Meglio vedove che male accompagnate, Rizzoli. Carla, grazie per essere stata con noi e ci sentiamo, spero, presto, a settembre ti vogliamo qui, in carne e ossa. Grazie a Carla Signoris, grazie a voi che ci avete sentito. Mandateci adesso ancora al 349-238-6666 il significato dell'orchidea e noi sceglieremo il vostro messaggio e vi faremo ricevere a casa il libro, Il linguaggio dei fiori. Grazie a tutti, a domani. Essere e benessere.